Noi all'Istituto Livi abbiamo avuto una campagna da parte di Azione Studentesca che ha più di una volta anche nel passato esposto dei manifesti in cui insomma evidenziavano il loro disappunto nei confronti dei docenti. E ovviamente quella ultima, queste erano proprio delle accuse gravissime nei confronti dei docenti, i quali avevano fatto un'attività diciamo di educazione civica inerente all'antifascismo. In realtà è stato strumentalizzato da parte loro, perché hanno affisso questi cartelloni l'indomani dell'accaduto di H. Laurenzia, in cui alcuni ragazzi di Azione Studentesca erano stati picchiati. In questi insomma diciamo striscioni chiedevano ai docenti di raccontare anche questo episodio. Noi abbiamo ritenuto che l'hanno strumentalizzato, poiché le attività di educazione civica erano già state programmate all'inizio dell'anno scolastico. Infatti sulla loro pagina Facebook hanno anche pubblicato la circolare della scuola, che era di dicembre del 2025. Quindi hanno voluto strumentalizzare per portare avanti quello che è la loro posizione, e con parole fortissime, perché l'hanno definito l'ennesimo festival del pensiero unico. In realtà questo tipo di attività vengono fatte tranquillamente all'interno della scuola Livi, ma come in tutte le altre scuole, perché fanno parte di quello che noi riteniamo sia l'educazione alla civiltà, alla democrazia, no? La Costituzione mette in evidenza due punti fondamentali, cioè due articoli fondamentali sono dedicati sia agli studenti, perché la scuola è aperta a tutti e quindi tutti i cittadini hanno pari dignità, lo dice la nostra Costituzione, e quindi senza distinzione di razza, di lingua. E poi fondamentalmente l'articolo 33 della Costituzione, che recita che l'arte e le scienze sono libere e libere ne è insegnamento. Noi abbiamo preso atto della loro iniziativa, rigettando assolutamente il fatto che i docenti debbano essere messi alla gogna ed essere indicati e segnalati perché di sinistra. Lo chiediamo che questo sia un atto gravissimo, poiché l'insegnamento alla democrazia è sempre stato uno dei punti fondamentali della scuola. La scuola ha il compito fondamentale di sviluppare il pensiero critico dei ragazzi, quindi nessun fine politico da parte dell'attività dei docenti, poiché è programmato quindi all'interno dell'attività scolastica, e riteniamo e rigettiamo tutto ciò perché crea un clima molto molto grave, perché questo ci porta alla deriva, perché riteniamo che la scuola debba essere un luogo dove i ragazzi possono esprimersi, nessuno toglie la possibilità di esprimere la propria opinione, ma ricordando benissimo che la nostra Costituzione è fondata sull'antifascismo, per cui non ci sono né se e né ma, non hanno nessun diritto di contraddittorio, perché sull'antifascismo non si può parlare. E ieri poi per l'appunto è stato il giorno della memoria, e se c'è il giorno della memoria è necessario ricordarlo. Stiamo assistendo a un tentativo da parte delle destre di in certo modo manipolare l'istruzione? Certo, secondo me sì, perché avendo visto la loro pagina Facebook in cui, ti ripeto, hanno pubblicato questo articolo accusando i docenti dell'IVI intorno all'8 di gennaio, ma l'attività era stata programmata perché forse ingenuamente hanno pubblicato la circolare interna della scuola, che ha un numero di protocollo e risaliva a dicembre, quindi era già in programmazione per quanto riguarda l'attività di parlare dell'antifascismo, cioè non era all'occasione dell'episodio dei fatti accaduti ad H. Laurenzia, per cui. E poi anche se fosse stato, nello stesso tempo, ripeto, la scuola ha il compito di ricordare a tutti i ragazzi che la nostra Costituzione è antifascista, lo dice la Costituzione, la Carta Costituzionale è nata da tutte le forze politiche che all'epoca hanno ricostruito le macerie che avevano portato, che aveva causato la guerra. Il fascismo ci aveva portato a quella situazione lì, quindi noi siamo per il rispetto della Carta Costituzionale, e quindi i docenti non possono essere intimiditi da un gruppo di giovani che incitano i docenti, perché a un certo punto sulla loro pagina Facebook scrivono che i docenti dovrebbero fare, aspetta lo ritrovo, catechismo politico forzato, e che poi invece di fare propaganda la scuola farebbe bene ad insegnare la voglia di libertà e l'impegno per la nazione. La scuola insegna la libertà, ma fondamentalmente insegna la democrazia. In uno Stato democratico, noi viviamo in uno Stato democratico, è compito della scuola attraverso l'educazione civica, che è una materia voluta dal Ministero, e noi riteniamo che debbano i docenti, rispetto all'articolo 33 della Costituzione, della libertà di insegnamento, portare avanti quelli che sono i cardini fondamentali della nostra Costituzione, quindi la democrazia e non il fascismo. L'Istituto ha preso dei provvedimenti per quanto è successo? I docenti hanno fatto un comunicato stampa che è stato ieri ieri, io l'ho visto, è stato pubblicato ieri, perché rigettano le accuse di questi ragazzi, anche perché insomma hanno appeso gli striscioni che sono stati poi la mattina rimossi dalle cancellate, non sono stati presi. Ecco, la scuola non ha questo fine, quello di insomma punire i ragazzi con dei provvedimenti disciplinari. La scuola ha un solo compito, quello di portare i ragazzi al ragionamento e al pensiero critico, quindi ecco, proprio perché i docenti devono fare il loro mestiere, che è quello di far rispettare la democrazia. Perfetto. Quindi i principi di libero pensiero, anche se non condivisi a questo punto, per quanto mi riguarda.